Internet Alphabet, corsi di formazione al Forte Prenestino a cura di Avvisi ai Naviganti BBS. E quando è che si può accedere a questi corsi? Ai corsi quando e come? Ai corsi si partecipa, non si accede, comunque è possibile segnarsi, iscriversi ai corsi tramite messaggio in BBS, sia BBS vecchia che nella BBS nuova, che ormai tutti conoscerete, Havana Overground, con interfaccia grafica, oppure, non so, spargendo la voce, venendo al Forte, non abbiamo un numero di telefono. Se qualcuno si candida, ce lo faccia sapere, ci fa il numero di telefono della BBS? Il numero del telefono della BBS è 21 70 969. Sbagliato! Complimenti! 25 74 110. Il numero 9 della BBS? 21 57 969. Ok. Ma, allora, aspetta. Chiediamo a una persona che partecipa direttamente e che direttamente ha la possibilità di fare commenti. Come stanno andando i corsi? Bene, siamo parecchi, si vede che si sono impegnati parecchio per darci il massimo però che ne so, io che sto proprio a zero faccio un po' di fatica a capire tutto. Quindi vanno troppo veloce? No, vabbè, è che è il primo corso per me, cioè sto iniziando da zero, all'inizio un po' è difficile, no? Sentiamo anche un'altra di Corsara. Diciamo che io forse ho un po' il problema opposto, perché sono una secchiona e invece il professore ogni tanto è un po' rompiscatole. Bene, detto questo, vi aspettiamo al corso di formazione internet dal lunedì al venerdì, 2 ore al giorno. Per altre info chiedete a Mr. Tuttle.